Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Il risultato del referendum di ieri in Ticino non renderà più facili i negoziati già in corso tra l'Unione Europea e la Svizzera per affrontare le conseguenze del referendum nazionale che 2 anni fa ha già chiesto di porre limiti all'ingresso di lavoratori europei, limiti che dovrebbero entrare in vigore nel febbraio prossimo. Così, dopo il voto di ieri, oggi è arrivato il monito di Bruxelles per voce del portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. The EU and Switzerland have been in intense talks for months now. Il presidente Jean-Claude Juncker ha ricordato, ha più volte chiarito che le 4 libertà fondamentali del mercato unico sono inseparabili, cosa che nel contesto svizzero significa che la libertà di circolazione dei lavoratori è fondamentale. Nell'ambito del negoziato già in corso, Juncker lunedì scorso ha incontrato il presidente della Confederazione Elvetica ed hanno concordato di vedersi di nuovo a fine ottobre per continuare il negoziato e trarre le potenziali conseguenze anche del voto in Ticino che, ha ricordato Schinas, deve essere comunque ancora approvato dal governo federale. E altrettanto tutte da chiarire sono ancora i rapporti con Londra, le conseguenze del referendum britannico sulla Brexit, ma anche la politica monetaria dell'Eurozona e la frammentazione del mercato finanziario. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, sarà sentito dalla Commissione Economica del Parlamento Europeo dalle 16. Ve lo racconteremo. Intanto un nuovo muro sorge in Europa e questa mattina il presidente francese Hollande era a Calais. Un fantasma si aggira per l'Europa ed è quello della xenofobia provocata dalle crisi migratorie. A pochi giorni dal referendum del 2 di ottobre in Ungheria sulle quote comunitarie dei migranti, il capo di Stato francese François Hollande è arrivato a Calais e ha fatto la voce grossa. Nous devons démanteler complètement, définitivement le campement de la Londres. Dobbiamo smantellare completamente, definitivamente, il campo, ha detto Hollande per la prima volta in città, ma senza visitare la giungla, la bidonville nella quale vivono ormai 10.000 migranti, donne e bambini compresi. Arrivato in elicottero, il leader francese ha visto i rappresentanti politici dell'imprenditoria e delle associazioni. Ha chiesto che i britannici facciano la propria parte. A pochi giorni dall'inizio della costruzione del muro di Calais, un blocco di cemento armato alto 4 metri e lungo 1 chilometro, che dovrebbe impedire ai migranti di salire sui tir diretti oltre frontiera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una curiosità ancora dall'Europa. La metà della popolazione dell'Unione Europea, circa 264 milioni di persone, potrebbe produrre la propria elettricità autonomamente da fonti rinnovabili entro il 2050. È quanto dimostra un report scientifico redatto dall'Istituto di Ricerca Ambientale CEDELF per conto di Greenpeace e Federazione Europea per le Energie Rinnovabili. In Italia, i cittadini dell'energia, come sono stati ribattezzati, potrebbero produrre il 34% dell'elettricità entro il 2050, il 37% da impianti domestici, altrettanto da cooperative energetiche, il 25% sarebbe il contributo delle piccole e medie imprese, mentre appena l'1% proverrebbe da enti pubblici. Ma con l'Europa per ora ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati, come sempre l'appuntamento questa sera con Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.